Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi Destini Incrociati si occupa di letteratura e di intrighi internazionali, di giovani editori, di giornalisti lungimiranti e di occasioni che capitano una volta nella vita. Parliamo di Russia, di Italia e del mondo agli inizi della Guerra Fredda. Parliamo di come spesso le idee vengano ostacolate dalle ideologie, ma di come alla fine l'Eterno che ha dato origine a un'opera d'arte spinga per venire alla luce. Comunque. Per capire meglio come si svolgono i fatti di cui parliamo oggi, è necessario soffermarci un po' sulla situazione politica di quel periodo storico e su come ci si è arrivati, a partire dall'Italia del dopoguerra, fino ad arrivare alla fine dell'unità antifascista, quell'unità che si respirava come una boccata d'ossigeno dopo le brutture del ventennio, all'interno della Costituente. La Costituzione, infatti, è il frutto di un singolare e meraviglioso incontro, come ricorda Neil Deiotti, attraverso le parole di Palmiro Togliatti, che si è sempre posto l'obiettivo di dialogare e collaborare con tutte le forze politiche. Certo, io mi riferisco alla frase di Togliatti, è l'incontro di due solidarismi, quello cattolico e quello socialista, naturalmente mettendo in questa parola anche i comunisti, naturalmente, in senso generale. Dopo i risultati delle elezioni del 18 aprile del 1948, la maggioranza assoluta è assegnata alla Democrazia Cristiana, assecondando così la logica degli accordi di Yalta e facendo scendere anche nel bel paese la cortina di ferro. Persino George Marshall, segretario di Stato americano e artefice dell'omonimo piano per la ricostruzione europea dopo la Seconda Guerra Mondiale, non manca di fare pressioni in questo senso, minacciando addirittura di non dare aiuti nel caso di vincita del Fronte Popolare, come si chiamava la coalizione dei partiti di sinistra in lizza. È il lungo dopoguerra italiano. Alla direzione del Partito Comunista, estromesso dopo queste elezioni dal governo, c'è Palmiro Togliatti, un fine intellettuale. Si dà il via al predominio della sinistra e dei comunisti nell'ambito della cultura. Egemonia assodata, come scriverà Giorgio Bocca. Questa egemonia c'è stata nel dopoguerra. Era stata progettata da Antonio Gramsci e messa in pratica dal nuovo partito di Palmiro Togliatti. Ma era un'egemonia con fondate motivazioni. Per cominciare, i comunisti leggevano. In tutte le case di militanti comunisti si trovavano libri che appartenevano genericamente a una cultura di sinistra, ma che spesso erano semplicemente dei libri di cultura, prodotti da case editrici di ottimo livello come Einaudi o La Terza. Gli intellettuali che gravitano intorno al Partito Comunista, anche se non sono militanti, contribuiscono a formare una fitta rete di rapporti e di solidarietà attraverso giornali, riviste, centri studi, case editrici. I soldi che arrivano da Mosca per sovvenzionare il partito servono anche a questo, a dare respiro alla cultura, che poi è anche indirettamente politica. Viene così fondata da Editori Riuniti la casa editrice del Partito Comunista, dove comincerà a lavorare il primo dei nostri due protagonisti di oggi, Sergio D'Angelo. Sergio D'Angelo. Io ero comunista e lavoravo, prima di andare a Mosca, nella casa editrice del Partito Comunista, la nascente casa editrice, diretta da Togliatti, Donini, Platone e altri personaggi dell'epoca, e poi come direttore della libreria Rinascita, che era quella del Partito Comunista con sede nel Palazzo delle Botteghe Oscure. Sergio, classe 1922, è un ragazzo romano che vive sulla sua pelle la storia d'Italia di quegli anni, tra gli orrori della guerra e la speranza di una rinascita sociale e politica che dia il via a un futuro più libero, egualitario, lontano dagli estremismi. Dopo essersi laureato brillantemente in lettere, nel 1944 si iscrive al Partito Comunista. È appena arrivato in casa in licenza, sono passati 3 anni da che è partito per il militare, partecipando anche come volontario al Corpo Italiano di Liberazione. Adesso sente che è arrivato il momento di prendere una posizione e così una mattina entra nella Federazione di Roma del PC e chiede di fare la tessera. La militanza gli interessa e avere la tessera sembra dargli un motivo in più per far sentire la sua voce. Tiene comizi, comincia a farsi notare dai dirigenti del partito. Sergio non perde nemmeno occasione per rimarcare il suo interesse nei confronti delle lettere, della cultura, di quella cultura che all'interno della sinistra sembra fluire ovunque, come racconta lui stesso. Furono questi della Federazione Romana, allora c'era Aldo Natoli come segretario, che così, avendo giudicato che io avessi delle capacità nel campo appunto dell'editoria eccetera, mi imbarcarono nella casa editrice del partito, che si formò in quegli anni. Io sono stato uno dei fondatori, ecco. Prima si chiamava Edizioni all'Unità, poi è diventata Edizioni Rinascita, poi si è fusa con le Edizioni di Cultura Sociale per fare gli Editori Riuniti. Sono gli anni 50 ormai, gli anni in cui in Italia De Gasperi, vincitore delle elezioni del 1948, punta alle prossime, quelle del 1952, per confermare uno Stato forte, lontano dal pericolo rosso, per una democrazia protetta dalle estreme sinistre. Sono gli anni in cui un ambizioso senatore dello Stato americano del Wisconsin, Joseph McCarthy, dà il via a una caccia alle streghe senza precedenti nei confronti dei simpatizzanti del Partito Comunista, identificando nell'Unione Sovietica l'impero del male. Sono gli anni in cui schierarsi sembra necessario in qualunque parte dell'emisfero si viva, o a destra o a sinistra. Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, si annoiano son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? In questo clima culturale e politico muove i suoi primi passi Gian Giacomo Feltrinelli, un ragazzo milanese di buona famiglia, iscritto anch'egli al Partito Comunista, che decide con una concreta motivazione imprenditoriale di aprire una sua casa editrice. È un momento di svolta cruciale non solo per l'Italia, e Gian Giacomo vuole tentare, attraverso il suo progetto, una sprovincializzazione della cultura, come racconta il figlio Carlo. Quindi, diciamo, questa è stata la cosa su cui lui ha vinto la sua battaglia, diciamo, di sprovincializzare questo paese, di collegarlo alle realtà più vive dal punto di vista internazionale. Insomma, questa è stata la sua grande battaglia editore che lui ha vinto. Collegare l'Italia alla cultura del mondo è un vero obiettivo per Feltrinelli. La sua immensa ricchezza, che deriva dalla famiglia d'origine, lo fa essere sospettoso nei confronti dei collaboratori, sempre timoroso di essere circondato da gente che lo vuole sfruttare, tendenzialmente da poca confidenza. Eppure chi gli sta vicino ha la sensazione di partecipare alla nascita di qualcosa di estremamente innovativo. La casa editrice, che secondo alcuni è solo il giocattolino di un ragazzo ricco, è per lui invece una missione, non a sfondo filantropico, ma culturale e certamente imprenditoriale. L'adesione alla cultura antifascista è esplicita, anche se è difficile interpretare le esigenze di quel periodo storico. Una cosa è indubbia, lui è un intellettuale comunista, per quello che significhi esserlo in quegli anni, come racconta sempre suo figlio Carlo. In Italia c'è stata indubbiamente una egemonia culturale della sinistra per tanti anni, oggi non c'è più, ma per tanti anni c'è stato, e la sinistra, diciamo, parlo dell'Italia, sicuramente è stata dal punto di vista culturale più creativa, sia perché appunto c'erano anche gli aspetti ortodossi, sclerotici, ovvio, no? Però insomma, se noi pensiamo alla cultura di sinistra del cinema, della letteratura, insomma, ci sono state tante spinte, anche talvolta eretiche, vedi Gian Giacomo Feltrinelli, innovative, che non si accontentavano, diciamo, dei luoghi comuni, anche della sinistra stessa, che avevano una funzione critica. Quindi, diciamo, dentro questa egemonia culturale della sinistra che c'è stata, ripeto, per tanti anni, c'erano spinte estremamente creative, estremamente libere, estremamente innovative, se non sillogistiche, non accademiche in qualche modo. Distinguersi significa anche fare scelte di rottura. Essere pionieri, innovatori, creativi, a volte può voler dire anche andare incontro a conseguenze poco piacevoli. Ma gli spiriti coraggiosi, quelli che hanno contribuito a fare la storia, non sempre si curano del dopo, intenzionati solo a lasciare un segno. Così farà Feltrinelli, che non solo in Italia, ma anche in Russia e in generale nel panorama mondiale del periodo, sta per fare la differenza scatenando un vero e proprio caso internazionale. Ma andiamo per ordine. Mentre in Italia la cultura è nelle mani della sinistra, cosa succede nella patria del comunismo? От Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Президиума Верховного Совета СССР Совета Министров Alle 21.50 del 5 marzo 1953, Radio Mosca trasmette la notizia della morte di Stalin, presidente del Consiglio dei Ministri dell'Unione Sovietica e segretario del Comitato Centrale del Partito Comunista. La Pravda, l'indomani, esce per l'occasione con la bordatura a nero delle pagine in segno di lutto. Per la politica si intravede forse una nuova luce, comunque sia, è certamente un avvenimento di grandissima importanza storica, destinato a modificare in profondità la situazione creatasi nel dopoguerra. Braccio destro di Stalin, Beria, un cinico e feroce funzionario complice delle famose purghe staliniane, che al funerale, di fronte a migliaia di persone accorse per dare l'ultimo saluto, celebra l'elogio del defunto. Posle smerti Lenina, Stalin quasi 30 let. Fortunatamente anche Beria viene allontanato e si apre l'era Khrushchev, che nel febbraio del 1956, durante il 20° congresso del Partito Comunista, denuncia nel famoso rapporto segreto i crimini di Stalin, condannando il culto della personalità e dando al comunismo una nuova spinta. Una resa dei conti storica, oltre che politica. Il rapporto segreto viene letto a una serie di delegati sovietici e a una selezione ristretta di delegati stranieri con l'impegno di non prendere appunti. Il contenuto del documento è così sconvolgente per il partito che ci vuole cautela. Incolpare Stalin di tutte le atrocità del suo operato, deresponsabilizzando gli altri dirigenti del partito, non è una cosa semplice. Ma come spesso accade in questi casi, e come accadrà anche all'altro protagonista di oggi, quando la verità preme per venire a galla, non ci sono ostacoli invalicabili. Qualche giorno dopo, infatti, nel New York Times compare una sintesi del rapporto che rimbalza in tutto il mondo, come racconta lo storico Luciano Canfora. Succede in sostanza, e questo non è totalmente inedito nella storia del movimento comunista, basti pensare a un altro testo celebre, il Testamento di Lenin, che il documento in questione venga reso noto fuori dell'Unione Sovietica prima che all'interno e soprattutto per iniziativa sovietica. Ma anche se Khrushchev sembra essere la soluzione, è comunque difficile staccarsi completamente dalla vecchia impronta, come dimostra l'invasione sovietica dell'Ungheria nell'ottobre del 1956. Budapest is in revolt. With uncontrolled fury, crowds set fire to Russian flags and put Soviet books to the torch. The Red Star is sent tumbling into the gutter. Anche l'atteggiamento nei confronti della cultura non subisce cambiamenti rilevanti. La Russia dell'età dell'oro, quella di Chekhov, di Dostoevsky, di Tolstoi, dopo la rivoluzione d'ottobre, e la creazione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, cioè dell'URSS, vede l'inizio di una letteratura nazionale con una forte impronta di realismo socialista. Il talento degli scrittori viene utilizzato dalle autorità per magnificare i meriti e i successi del regime e supportare la propaganda ufficiale. Il regime si occupa di organizzare la vita letteraria e di orientarne i temi attraverso l'unione degli scrittori. Gli scrittori refrattari sono costretti all'esilio, alla prigione o al campo di concentramento. La sparizione o la morte di alcuni di loro è avvolta sempre da misteri, come per il poeta Vladimir Majakovskij, considerato il poeta della rivoluzione per antonomasia, che decide di porre fine alla sua vita a soli 37 anni con un colpo di pistola. Anche se probabilmente è stato il regime a suicidarlo. Come ci racconta Sergio D'Angelo, ci sono leggi molto precise che regolano scrittori e opere letterarie. Nell'Unione Sovietica allora nessuno era autorizzato, nessun sovietico, a esportare romanzi o comunque scritti, eccetera, senza un'autorizzazione preventiva delle autorità competenti. Ed è proprio in questo clima che si inserisce l'incontro del destino di oggi. L'incontro di due vite, di due visioni del mondo, ma di un'unica verità. Of Il 1956 è anche l'anno in cui il partito chiede ad Angelo se vuole fare un'esperienza a Mosca. Lui è già introdotto nella casa editrice Editori Riuniti e dirige la libreria Rinascita. È sicuramente più nelle sue corde accettare una proposta di questo genere che non fare una carriera politica. A un certo punto il partito mi propose di lasciare quel lavoro e di andare a Mosca, dove c'era una vecchia redazione italiana della radio ufficiale Mosca, con 25 circa componenti, dei quali il grosso era russo. Poi c'erano 4-5 italiani che erano dell'antica emigrazione degli anni 30, gente scappata dall'Italia, artigiani che poi avevano lavorato lì e da pensionati ormai davano una mano alla redazione, ma insomma con poche possibilità culturali e senza conoscere più bene l'Italia. Quindi volevano che io, andando lì, ne mandarono anche un altro che era, si chiamava Sergio Soglia ed era un giornalista dell'Unità di Bologna. Ecco, mi mandarono lì, io accettai, ero curioso di fare questa esperienza e partii. D'Angelo, che frequenta il mondo dell'editoria, conosce un altro militante nel partito che condivide con lui la stessa passione, ed è Gian Giacomo Feltrinelli, il quale, saputo del suo viaggio a Mosca e avendo l'idea di aprire la cultura italiana al mondo con la sua personale casa editrice, gli chiede di fargli da talent scout. Prima di fondare la casa editrice che porta il suo nome, Feltrinelli aveva preso delle iniziative molto modeste, insomma, preliminari. Ha pubblicato una collana di libri popolari e io avevo collaborato con lui come traduttore, prefatore di un paio di libri. Uno era La storia delle religioni di Hume e quindi ci conoscevamo. Lui poi, quando io stavo direttore alla libreria di Nascita, veniva spesso lì e allora così si chiacchierava e quindi approfondimmo così un po' la nostra conoscenza. Seppe che io ero destinato a Mosca, mi disse, dice, ma senti, tu te lo sentiresti di fare questo lavoro così, eccetera? Mi dava un piccolissimo compenso, ma mi interessava però avere questo pungolo. E così accettai. Prima di partire, a Sergio dovrebbe arrivare dal Ministero degli Esteri italiano l'estensione sul passaporto per l'Unione Sovietica. Nonostante il Partito Comunista, che si sta occupando della sua partenza, si sia prodigato per fargliela avere, quando D'Angelo decide di partire, formalmente non è ancora autorizzato a entrare a Mosca. Il destino però non aspetta e non ammette ritardi. Così un giorno ai primi di marzo del 1956, Sergio prende un aereo per Berlino Ovest. Il muro non è ancora stato costruito. Passare da Berlino Ovest a Berlino Est è piuttosto facile e una volta arrivato dall'altra parte, lui sa che non avrà problemi per partire alla volta dell'Unione Sovietica. E così attraversa senza impedimenti il confine immaginario che divide in due la capitale tedesca. Immaginario ancora per poco. A Berlino Est si presenta all'ambasciata sovietica, dove la sua pratica è già stata avviata grazie all'intervento del partito dall'Italia. Scopre che si tratta solo di avere ancora un po' di pazienza. Dopo una decina di giorni, Sergio può partire. Alla fine mi fecero partire con un treno, un vagone tutto per me, uno sleeping car, via Varsavia per Mosca. Il viaggio dura due giorni. Dai finestrini del treno passano città, paesaggi, culture, come sulla pellicola di un film. Lungo quella geografia si sta svolgendo il nastro dello spirito del tempo, della storia personale del giovane D'Angelo, che freme all'idea di attingere per un po' alla fonte dell'ideologia nella quale crede, ma anche e soprattutto della storia mondiale. Là c'è ad attenderlo molto più dell'opportunità di lavorare nella redazione di Radio Mosca. Là c'è la svolta di una vita. Sergio arriva a Mosca il 15 marzo del 56, solo alcune settimane dopo il 20° congresso del Partito Comunista e del famoso rapporto segreto di Khrushchev. Gli ospiti russi sono gentili col compagno italiano. Lo aiutano persino a sistemarsi nel modesto appartamento al 10° piano di un palazzone di fronte alla stazione ferroviaria Kiev, dove a breve lo raggiungerà anche la moglie Giulietta coi due figli. L'occasione da prendere al volo non tarda ad arrivare. Ai primi di maggio di quello stesso anno. Io, stando alla radio sovietica, avevo tra le altre cose l'incarico di tradurre, di redigere dei notiziari, articoli vari, ecco, e un giorno mi capitò tra le mani un notiziario fatto di piccole brevi notizie, culturale, un notiziario culturale, fatto di brevi piccole notizie, tra le quali tra l'altro c'era l'annuncio che Pasternak aveva finito di scrivere un romanzo. A Sergio non sembra vero. Come recita il notiziario, Boris Pasternak ha terminato il suo romanzo dal titolo Il dottor Zivago e presto lo darà alle stampe. Un romanzo in forma di diario che abbraccia tre quarti di secolo e che termina con la Seconda Guerra Mondiale. Per chi come D'Angelo ha accettato l'incarico dal giovane editore milanese di segnalargli le più significative novità letterarie dell'Unione Sovietica, è davvero il momento decisivo. Interessato da questo fatto, perché io andando a Mosca avevo accettato la proposta anche da Feltrinelli di fargli lo scout per un piccolo compenso, insomma, no? Uh-huh. Siccome quello era un periodo particolarmente interessante, e poi fu il periodo del rapporto segreto, io arrivai all'indomani del rapporto segreto, si può dire che fu tenuto alla fine di febbraio, io arrivai il 15 marzo. Dunque, e quindi mi interessava fare questo lavoro anche perché era un incarico che mi spronava a seguire così i mutamenti che c'erano nel clima culturale, conoscere della gente, insomma, no? Il 20 maggio del 56, una domenica di sole, Sergio, accompagnato da un giornalista di Radio Mosca, Vlad Len, che coglie l'occasione di stare con lui per esercitare il suo italiano, si reca a Perejelkina. Alle 10 del mattino il treno elettrico si ferma nella stazioncina del villaggio degli scrittori, a 25 km a sud di Mosca. Arrivati là, i due si incamminano per le strade di terra battuta in mezzo al verde primaverile dei prati, finché in un giardino recintato, dietro a un bosco di betulle, scorgono la casa di Boris Pasternak, dove lo scrittore con un giubbotto e dei calzoni di tela grezza sta potando una pianta. Sergio gli deve parlare. Nessuno dei due sa ancora quali saranno le conseguenze di quell'incontro. Destini incrociati. Destini incrociati e in Unione Sovietica. È il 1956 e Sergio D'Angelo, un giovane comunista italiano impegnato in Italia nella casa editrice del partito e talent scout per conto della nascente casa editrice di Gian Giacomo Feltrinelli, viene mandato a Mosca per collaborare con Radio Mosca. Ai primi di maggio alla radio danno la notizia che Boris Pasternak ha appena terminato il suo romanzo, Il dottor Zivago. L'occasione a D'Angelo sembra imperdibile, così decide di incontrare lo scrittore. Boris Pasternak vive a Perejelkina, un complesso di dace a sud-ovest di Mosca, luogo che uno dei padri del realismo socialista, Maxim Gorky, suggerisce nel 1934 di assegnare all'Unione degli scrittori. D'Angelo arriva una domenica mattina, accompagnato da un collega della radio. Vuole parlare a Boris Pasternak dell'idea che ha avuto a proposito del suo neonato romanzo. Lui rappresenta un editore italiano per il quale deve scoprire opere letterarie interessanti e quella di Pasternak ha tutti i crismi per essere una di quelle. Pasternak all'epoca ha già più di 60 anni e la fama di essere un poeta che non ha mai voluto allinearsi all'intelligenza. Nato alla fine dell'Ottocento, ha vissuto sulla sua pelle il passaggio dalla Russia zarista a quella della Rivoluzione d'Ottobre, passando per le atrocità di Stalin. Anche lui non è immune dalla pressione che le autorità fanno sugli artisti sovietici, come scrive egli stesso nella sua autobiografia, opera preparatoria al romanzo. Da poco ho terminato la mia fatica principale, la più importante, l'unica di cui non mi vergogno e di cui rispondo senza paura. È un romanzo in prosa, con appendice poetica. Si intitola Il dottor Zivago. Non avere paura è un concetto che non viene espresso a caso, visto il periodo storico e il paese in cui vive ed è nato. Pasternak cresce in una famiglia di intellettuali di origine ebraica. Il padre è un famoso pittore e realizza illustrazioni per i libri di Tolstoi, suo grande amico. La mamma è concertista, tanto che all'inizio della formazione del piccolo Boris, tutti sembrano intravedere in lui la stessa predisposizione della madre e il talento del musicista. Il suo amore per la letteratura e più precisamente per la poesia arriverà durante l'adolescenza. Studia dapprima al Conservatorio di Mosca e poi si butterà sulla filosofia nell'Università di Marburg. esordisce a soli 24 anni con la sua prima raccolta di poesie dal titolo Il gemello delle nuvole, di cui in futuro non amerà lo stile, così come di molte sue opere scritte in gioventù. Ma come ribadisce nella sua autobiografia, è necessario rinnovarsi senza rimpianti, anche rinnegando, se necessario. Nella vita, perdere è più necessario che acquistare. Il grano non germoglia se non muore. Bisogna vivere senza stancarsi, guardare avanti e nutrirsi delle riserve vive elaborate dall'oblio in collaborazione con la memoria. Acclamato poeta contemporaneo nella Russia del dopo rivoluzione, Pasternak non manca però di prendere distacco dalle scelte estremiste sovietiche, soprattutto da quelle staliniane. Traduttore di molti poeti europei, tra cui Goethe e Shakespeare, ma anche di molti poeti georgiani, cari al georgiano Stalin, sembra venga risparmiato da Stalin proprio per questo, per avere immesso in un circuito più vasto della piccola Repubblica Caucasica alcuni artisti suoi compaesani. Amico da sempre anche del poeta Vladimir Mayakovsky, che della loro presunta similitudine soleva dire «Siamo effettivamente differenti, voi amate il fulmine in cielo e io nel ferro da stiro elettrico», Pasternak scriverà, in occasione del suo misterioso suicidio, una poesia che suona come un presagio. Oh, se io avessi allora presagito, quando mi avventuravo nel debutto, che le righe con il sangue uccidono, mi affluiranno alla gola, e mi uccideranno. Mi sarei nettamente rifiutato di scherzare con si fatto intrigo. Il principio fu così lontano, così timido, il primo interesse. Ma la vecchiezza è una Roma senza burle e senza ciance, che non prove esige dall'attore, ma una completa, autentica rovina. Il distacco definitivo dalla politica culturale del partito avviene per Pasternak nel 1946, quando comincia a mettere mano al Dottor Zivago, il suo capolavoro che gli procurerà notorietà a livello mondiale, ma anche quella rovina di cui parla profeticamente nella poesia dedicata a Mayakovsky. Perché per Boris c'è un'altra Russia, oltre a quella sovietica. Ed è quella per la quale si batte, una Russia dell'anima, più universale, dove quella tendenza del popolo russo allo straordinario riesce a sopravvivere nella natura simbolistica immortale della sua arte. La sua vita è essa stessa arte, come conferma nella sua autobiografia. Basta quello che ho scritto a illuminare come, nella mia storia personale, la vita sia diventata creazione artistica. E come questa sia nata dal destino e dall'esperienza. Destino ed esperienza. Ecco la ricetta ideale per dar vita alla svolta che lo aspetta quella domenica mattina quando Sergio D'Angelo si presenta a Pere Jelkina per parlargli. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Boris Pasternak accoglie D'Angelo e il collega con una forte stretta di mano. La giornata è bella, calda. È una tipica giornata primaverile. Così lo scrittore invita i suoi ospiti ad accomodarsi su due panche in giardino. D'Angelo non sta più nella pelle. Dopo i convenevoli, viene al sodo e racconta del perché è lì. Io sono qui perché faccio questo lavoro, sono così e così, un comunista italiano che lavora. Poi... faccio anche lo scout, il talent scout per Feltrinelli, che mi ha dato questo incarico, che io ho accettato volentieri. Io ho saputo che il suo romanzo è finito e sta per uscire, uscirà rapidamente, e lui mi fermò e disse: guardi, il mio romanzo non verrà pubblicato nell'Unione Sovietica. Sergio lo contraddice. Lui ha letto la notizia alla radio dove si diceva che sarebbe stato presto pubblicato. Perché non dovrebbe essere vero? Cosa può impedire la pubblicazione del Dottor Zivago? Ho letto la notizia alla radio. La radio è una fonte ufficialissima, no? Quindi perché lei dubita di questo? No, no, il mio romanzo, guardi, qui non verrà pubblicato. Evidentemente lui sapeva altre cose e aveva ragione. A Sergio sembra comunque strano che anche adesso ci siano problemi di censura. Adesso che il clima sembra essere mutato nell'Unione Sovietica, che sembra esserci più tolleranza e un'apertura maggiore verso il nuovo, in una parola il disgelo di cui si parla tanto in Occidente. Ma a Pasternak, che in Russia ci è nato, non sfugge la pericolosità del contenuto della sua opera. D'Angelo cerca di spiegare allo scrittore che lui rappresenta un editore comunista e che quindi il romanzo sarebbe stato pubblicato sicuramente in accordo con le autorità sovietiche, mitigando in un certo senso l'eventuale sgarro che lui pensava di fare facendolo uscire dall'Unione Sovietica senza autorizzazione preventiva. Pasternak ascolta con interesse quello che il giovane talent scout gli sta proponendo, finché rompe gli indugi. Non stiamo a discutere se il romanzo esce o non esce nell'Unione Sovietica. A me interessa che sia pubblicato fuori. Ecco, questa è l'occasione propizia. Però, ecco, ha una condizione, che il romanzo non sia pubblicato soltanto in Italia, ma anche in altri paesi importanti, lui citò l'Inghilterra, la Francia. Richiesta lecita, quasi obbligata. D'Angelo garantisce a Pasternak che quello che lui sta chiedendo è sicuramente possibile, anzi auspicabile per qualunque grosso editore che cerca sempre di vendere all'estero i diritti dei suoi libri di successo. La decisione è presto presa. Mi chiese il permesso di entrare in casa, andò e tornò con un grosso pacco, era un testo d'attilo scritto del dottor Civago. Il pacco contenente il suo capolavoro è ora nelle mani di D'Angelo, il quale avverte il peso della sua responsabilità, di tramite tra lo scrittore e il suo editore, tra l'eterno dell'arte e la sua rivelazione al mondo. Peso che simbolicamente è anche quello del dattilo scritto. Io feci finta così di fare fatica a prenderlo in braccio. Ecco, e comunque gli dissi: guardi, siccome io avrò un'occasione prossima per andare a Berlino, io sfrutterò questa occasione per consegnare direttamente questo pacco all'incaricato della casa editrice Feltrinelli. Già, Berlino e la regolarizzazione del passaporto che D'Angelo non ha ancora fatto. Quel timbro che serve per renderlo ospite ufficiale nell'Unione Sovietica, quella burocrazia che ha tardato a funzionare alla sua partenza, di cui lui si è beffato partendo lo stesso, e che adesso sembra essere l'ennesimo segno del destino. La porta sul cancello, quando ci saldò, sempre contento, così, con grande simpatia, ci disse scherzando, volle confermare quello che lui pensava, no? Che non si pubblicava il romanzo e che quindi nell'Unione Sovietica e che quindi lui sarebbe andato incontro a dei pasticci. E disse a me e all'altro russo che mi accompagnava: voi siete invitati fin d'ora alla mia fucilazione. Parole che riecheggiano ancora nella memoria di D'Angelo, che la settimana successiva a quell'incontro è nella capitale tedesca per incontrare Gian Giacomo Feltrinelli e dare inizio così al caso Pasternak. Destini incrociati. Destini incrociati a Berlino. È la fine di maggio del 1956. Sergio D'Angelo, dopo aver incontrato a Mosca Boris Pasternak, che gli consegna il suo romanzo, Il Dottor Zivago, dà appuntamento a Gian Giacomo Feltrinelli, per cui fa il talent scout. Il manoscritto che ha per le mani è certamente un capolavoro e la Russia non può permettersi che veda le stampe, visto il suo contenuto antisovietico. L'occasione per l'editore è enorme, un colpo che può lanciare la sua giovane casa editrice. L'occasione è anche quella dello scrittore, che preme perché il suo libro faccia il giro del mondo, anche contro il volere delle autorità russe. Una volta arrivato a Berlino Est, D'Angelo si reca all'ambasciata italiana nella Berlino Ovest per regolarizzare il suo passaporto. Una volta là, non manca di chiamare Feltrinelli a Milano per organizzare un incontro. Sergio predispone tutto al meglio, prenota una stanza per l'amico Gian Giacomo nel suo stesso albergo. Una volta arrivati insieme in albergo, avviene il trasferimento del manoscritto dalla sua valigia a quella dell'editore. Così, senza mistero, senza timore alcuno. A giugno di quello stesso anno, Feltrinelli ha già avviato rapporti epistolari con Pasternak, ottenendo da lui un contratto firmato. La storia ha dato inizio al suo corso, niente la può più fermare ormai. Nello stesso tempo comincia a diffondersi in Russia la notizia dell'incontro tra D'Angelo e Pasternak e dell'accordo per pubblicare Il Dottor Zivago. Compaiono così da parte degli organi della cultura sovietica le prime stroncature del romanzo, che viene definito un'opera antisovietica, una perfida calunnia contro la rivoluzione. Viene chiesto al suo autore di rielaborarlo per renderlo più politicamente accettabile, ma Pasternak si rifiuta. Il PQS minaccia di prendere seri provvedimenti nei suoi confronti, ma Pasternak decide di proseguire e chiede a Feltrinelli di fare lo stesso. Ecco come ricorda quella vicenda lo stesso Gian Giacomo, che ormai ha già mandato a tradurre il romanzo. Mi piace invece riandare con la memoria al momento in cui cominciai a leggere la traduzione del romanzo. Ebbi subito l'impressione di trovarmi di fronte a un testo di grande rilievo, a un'opera che si poneva tra i capolavori della letteratura russa e mondiale, a un romanzo che aveva tutte le qualità per raggiungere il successo e una vera popolarità. Questa mia prima impressione di lettore e di editore fu poi confermata dai giudizi critici della redazione e dai lettori della mia casa. Non ebbi quindi nessuna esitazione e passai il dattiloscritto in tipografia. Non mi posi nessuna domanda su come catalogare l'opera di Pasternak e, per i valori letterari ed umani del dottor Zivago, e perché, oltre a tutto, in Russia sembrava allora iniziare quello che fu detto, proprio dal titolo di un altro romanzo, il periodo del disgelo. Feltrinelli intrattiene con Pasternak un rapporto epistolare molto fitto, il tutto in francese. Lo stesso scrittore gli fa presente che qualunque comunicazione fosse arrivata a suo nome, scritta in un'altra lingua, avrebbe dovuto ritenerla falsa o comunque non rispondente alla sua volontà. La sezione culturale del Partito Comunista, infatti, cerca di recuperare il manoscritto ormai nelle mani dell'editore italiano, spingendolo a non pubblicare il romanzo prima di una revisione dello stesso Pasternak. La richiesta avviene attraverso un telegramma scritto in italiano. Feltrinelli non esita a respingerlo e, poiché la richiesta arriva dal partito al quale anche lui stesso è iscritto, conferma con la sua decisione di proseguire nella stampa di battersi sempre e comunque per ogni libertà, in particolare, come editore, per la libertà del pensiero e della cultura. Il dottor Zivago esce in Italia in prima mondiale il 23 novembre del 1957. Già nel nome scelto dall'autore per il protagonista, con la sua radice Shiv, che in russo significa vivo, c'è la forza della verità che non si può soffocare. L'indomani Pasternak scriverà una lunga lettera a Feltrinelli. D'Angelo è nei suoi pensieri. Niente di ciò che è accaduto avrebbe potuto realizzarsi senza l'aiuto di Sergio D'Angelo. A lui devo tutta la mia riconoscenza. L'edizione del dottor Zivago va a gonfie vele, fioccano le ristampe e compaiono le edizioni inglese, americana, tedesca, olandese, danese, svedese, finlandese, norvegese, israeliana e messicana. Nessuna edizione russa. Il Cremlino ormai ha all'ordine del giorno la preoccupazione del caso Pasternak. La donna che da oltre un decennio fa parte della vita di Boris Pasternak, Olga Ivinskaya, alla quale peraltro è ispirata la protagonista femminile del romanzo, Lara, cerca in ogni modo di scongiurare i pericoli che si stanno per abbattere sullo scrittore. Ma non c'è più nulla da fare ormai. Il tutto precipita quando comincia a diffondersi la notizia della sua candidatura al premio Nobel. Per l'Unione Sovietica si fanno i nomi di Pasternak e Sholokhov. L'autorità sovietica, per allontanare la possibilità della vincita dello scomodo scrittore, del dottor Zivago, si mobilita, ma senza risultato. Il 23 ottobre del 58 Pasternak riceve il premio Nobel e risponde con un telegramma di ringraziamento al segretario dell'Accademia svedese di sole 6 parole. Infinitamente riconoscente. Toccato, fiero, stupito, confuso. Some need gold and some need diamond rings, or a drug to take away the pain that living brings. Lo stesso giorno il PQS decide il da farsi. Innanzitutto si prende atto che la premiazione del dottor Zivago è una mossa dell'Occidente per denigrare l'Unione Sovietica e infiammare la Guerra Fredda. Poi chiede espressamente a Pasternak di rifiutare il premio. Non felici, l'Unione degli scrittori toglie a Pasternak la qualifica di scrittore sovietico e si parla di esilio. Il 29 ottobre, una sola settimana dopo il premio, il futuro capo del KGB, Vladimir Semichasny, arringa il comitato centrale della sua organizzazione con parole pesantissime al riguardo. Si presenta oggi, alla nostra attenzione di Repubblica Socialista, il problema del signor Pasternak, che con la sua opera calunniosa nei confronti del nostro popolo si è comportato come un maiale. Anzi, peggio di un maiale, perché il maiale non insudicia col suo sterco il posto dove mangia. Le pressioni su Pasternak sono incredibili. L'esilio è ciò che lui teme più di tutto. Messo alle strette, decide di rifiutare il premio Nobel con un secondo telegramma al segretario dell'Accademia di Svezia. Dopo quel telegramma scriverà una lettera a Khrushchev, chiedendo di non procedere con la sua espulsione dalla Russia, cosa che per lui significherebbe la morte. In qualche modo le sue richieste vengono accolte. Da allora, per i pochi anni che ancora gli resteranno da vivere, Boris Pasternak vivrà da emigrato interno, ridotto in miseria anche perché non può più attingere dall'oro di Giuda. Così veniva chiamato dai gerarchi sovietici il frutto della vendita del dottor Zivago. In Italia, nel frattempo, alla neonata Rai, il 2 novembre del 1958, si tiene una trasmissione dedicata al caso Pasternak, in difesa dello scrittore russo e del suo capolavoro. La vicenda del dottor Zivago riguarda ovviamente anche il bel paese e soprattutto non c'è colorazione politica che possa ostacolare la sua portata universale. Gianni Granzotto conduce la serata. Il famoso dottor Zivago, il romanzo dello scrittore sovietico Boris Pasternak. Si può dire veramente che in questo momento questo libro sia il più celebre libro del mondo, sia perché tutto il mondo in questi giorni ne parla, sia perché è proprio da questo libro che ha avuto origine il caso Pasternak, il caso sul quale noi questa sera intendiamo intrattenerci con voi. Intanto Sergio D'Angelo è rientrato in Italia. La sua esperienza a Radio Mosca è conclusa. Continua però a rimanere in contatto con Pasternak, che è sempre più malato, ma soprattutto con Olga, la sua compagna. Con lei organizza una spedizione clandestina di soldi in Unione Sovietica, soldi derivanti dai proventi della vendita del libro, per cercare di venire in soccorso all'autore che ormai vive nella sua casa a Predeyelkina senza assistenza medica, nella più totale indigenza a causa delle rappresaglie sovietiche. La salute piano piano si aggrava. Il 30 maggio del 1960 Boris Pasternak muore per arresto cardiaco. Ai funerali accorre una folla incredibile. L'orazione funebre viene pronunciata da Valentin Asmus, saggista e filosofo che definisce Pasternak un poeta geniale, il cui nome vivrà finché esisteranno sulla terra la lingua e la letteratura russa. Nonostante la sua morte, il governo non smette di accanirsi su di lui, attraverso le persone a lui care. Qualche tempo dopo, infatti, i soldi che D'Angelo fa arrivare ad Olga vengono intercettati da una spia del KGB e Olga viene mandata alla Lubyanka, un campo di concentramento. L'accusa è di contrabbando di valuta estera, accusa che ricade anche sulla figlia. Nel 1964 viene liberata. Non erano accusabili di contrabbando, in ogni caso potevano dire che loro avevano ricevuto dei rubli, non sapevano di che provenienza erano, ma siccome Olga e la figlia non viaggiavano oltre frontiera, non potevano fare materialmente il contrabbando, no? Si dovrà attendere il 1988, al tempo di Gorbaciov, la soluzione piena di madre e figlia per non avere commesso il fatto. Solo l'anno precedente, 20 anni dopo la prima mondiale, quando il comunismo è sul punto di crollare, grazie anche ai colpi inferti dal caso Pasternak, comparirà la prima edizione russa del dottor Zivago. D'Angelo però, in attesa della riabilitazione del libro e della riabilitazione di Olga, cerca il modo di utilizzare quei soldi che sono negati agli eredi di Pasternak e chiede a Feltrinelli di poterne gestire una parte per istituire un premio letterario dedicato allo scrittore. Questo darà via a un procedimento giudiziario fra l'ex talent scout e la casa editrice, che dura 8 anni. Il premio non si farà mai e il processo si concluderà dopo la morte di Gian Giacomo, avvenuta in circostanze misteriose nel 1972. Di questo e dell'intera faccenda legata al dottor Zivago, D'Angelo scriverà un libro, intitolato appunto Il caso Pasternak, e proprio sulla morte dell'editore e sul presunto responsabile ha le idee chiare, anche se preferisce tacerne il nome. Secondo me, uno che legge molto attentamente il romanzo, il mio libro, stando attento ai tempi, no? Quando avvengono certe cose, ai personaggi che ci sono, è a buona probabilità, secondo me, di indovinare il nome che io non posso pronunciare. Questa vicenda, questo romanzo nel romanzo, si intreccia inoltre con la vicenda personale di D'Angelo e la sua fuoriuscita dal Partito Comunista. La sua vita proseguirà poi negli Stati Uniti, sempre col ricordo di quella domenica di maggio nella casa Periielkina, che ha dato il via al caso Pasternak. Non solo un grosso smacco per l'Unione Sovietica, ma come disse Solženicyn, il primo mattone strappato a una diga. Nel 1965 il tema di Lara. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.